grigio, tutto è grigio, un infinito, eterno, grigio. Nessun bianco, nessun nero, nessuna sfumatura, nessuna tempesta, nessuna giornata di sole, solo una fredda e umida nebbia. Nessun amore, nessun odio, nient'altro, sul serio. Perfino io credevo che esistessero, li cercavo nelle tempeste più furiose e nella calma dei monti e delle colline, ma poi mi sono accorta che non sono mai esistite. Non c'è rimasto nulla che ci dia una strada da seguire, un dito indicatore, nemmeno l'ideologia, un partito, è solo una gigantesca rete che tenta di catturare il maggior numero di pesci possibile, senza un ideale di fondo. Sperate che non ritorni mai.